Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Paolo Mutti, il silicio e il sole di Rieti, di Alessandra Scaglioni. Solsonica è un'azienda che si trova a Rieti e che produce celle e moduli fotovoltaici. La sua storia è fatta di trasformazioni. Il suo presente vede un fatturato di 100 milioni di euro per il 2010 rispetto ai 19 milioni del 2008, con una crescita del 500% in 3 anni. Oggi a guidarla c'è Paolo Mutti, ingegnere nucleare, con esperienze importanti nella ricerca e anche lui con un percorso fatto di cambiamenti. All'inizio della storia l'azienda ha un altro nome, un nome americano, e una produzione diversa. Inizia da lontano, inizia nei lontani, oramai, anni 70. Inizia nell'industrializzazione dell'area centro italiana, legata anche a possibilità di incentivi. Inizia quando aziende importanti del comparto elettronico, Alcatel, Texas Instruments, decisero di impiantare stabilimenti di produzione in Italia. Questo è l'inizio, quindi l'inizio di questa azienda è targata Texas Instruments. Siamo negli anni 70 e il prodotto che veniva allora prodotto, ed è stato prodotto per tanti anni, erano le calcolatrici tascabili. Negli anni 90 la concorrenza asiatica diventa agguerrita. La Texas Instruments decide di razionalizzare le proprie produzioni. E siamo alla seconda fase della vita dell'azienda. Inizia a produrre le memorie dei computer. Cambia anche il nome e diventa EMS. Si espande con stabilimenti in Asia, è di proprietà per il 60% del fondo Permira e nel 2006 si quota in borsa. Pochi anni dopo c'è un nuovo cambiamento. A Rieti la produzione di semiconduttori non conviene più e si converte al fotovoltaico. Nasce Solsonica. La proprietà di Solsonica è al 100% del gruppo EMS. Il gruppo EMS è il titolo quotato, solo che nel frattempo è avvenuto un altro cambiamento. Attorno alla fine del 2009 Permira esce e entra la famiglia Mutti prendendo la quota di controllo e quindi una quota attorno al 22%. Ed è a questo punto della storia che Paolo Mutti prende in mano la guida dell'azienda. Anche la sua, di storia, era iniziata in maniera diversa. Mi laureo in ingegneria nucleare, prendo un dottorato a Oxford in scienza dei materiali. Immagino che la mia avventura nel futuro sia molto legata alla ricerca. Permango, per un certo periodo all'interno della ricerca accademica. Diciamo che non avevo trovato il giusto stratum, per poter fare il lavoro che avrei voluto fare al livello che avrei voluto fare. E inizio a dedicarmi alla ricerca industriale. Faccio un'attività un po' specifica, un po' specialistica, cioè divento un crescitore di cristalli di silicio. I cristalli di silicio sono gli oggetti alla base di tutto lo sviluppo dell'elettronica e del solare. Questo in Italia, perché in Italia ci sono gli assetti produttivi, parte degli assetti produttivi di un gruppo internazionale che si chiama MMC, 2 stabilimenti, uno a Novara e uno a Merano. Lo stabilimento di Merano è uno stabilimento dove si produce silicio. Lì, ho un periodo abbastanza intenso e fortunato perché mi trovo in un contesto veramente molto prolifico e iniziamo a fare una grande attività su una cosa abbastanza specialistica che mi genera una grande competenza, 62 brevetti in una cosa che si chiamava il silicio perfetto. A Merano si era trasferito con tutta la famiglia, ma dopo alcuni anni quella situazione inizia ad andare stretta a Paolo Mutti. Se lei era nell'anno 2000 a Merano a crescere cristalli di silicio, vedeva che il mondo parlava un'altra lingua perché in quel momento andava internet, in quel momento tutto era virtuale, in quel momento era come se lei fosse lontano dal film che stava scorrendo. A quel punto decisi che era opportuno tornare a Milano e mi occupo di consulenza strategica, entro in Ethic Ernie, e quindi guardo l'altro lato del mondo, cioè io ero un ricercatore, avevo una carriera proprio da senior scientist, invece là mi occupo di business planning, mi occupo di problematiche varie, mi occupo di tutta una serie di cose di cui ero anche un po' ignorante, quindi mi faccio una cultura in quel campo, mi specializzo in quello che viene chiamato l'ambito della strategia tecnologica e quindi inizio a capire quali siano in un certo senso le scelte giuste relativamente a che tecnologia adottare, come organizzare la ricerca e sviluppo, eccetera. A Milano apre una società di consulenza sui temi dell'innovazione. ma c'è il desiderio di capitalizzare le esperienze, la voglia di creare un'impresa e l'idea che il solare possa essere la strada giusta. Per Paolo Mutti e per l'azienda di Rieti maturano i tempi di un avvicinamento. Cercavo un partner industriale perché io avevo una competenza tecnologica, ero pronto in un certo senso a capitalizzare in parte questa venture, però avevo necessità di avere delle spalle più formate, più grosse, più capaci dal punto di vista veramente di fare. E poi cercavo anche un partner finanziario. In questo mi incontro negli uffici di Permira con Enzo D'Antonio, perché poi, voglio dire, alla fine uno fa circolare la voce e nasce questa simpatia reciproca. Al di là della simpatia personale, proprio mi avverso l'azienda, visito l'azienda e trovo in un certo senso un bel substrato, gente organizzata, gente che sa fare, si vede subito che c'è cultura nel saper fare. Inizialmente non ci troviamo però d'accordo dal punto di vista dell'investimento e quindi io andai avanti, loro andarono avanti anche. L'incontro si concretizza in un secondo tempo. Intanto per EMS sono arrivate le difficoltà economiche della crisi, mentre Paolo Mutti non ha ancora trovato il suo partner industriale e finanziario e va a lavorare in Solsonica. Un anno che girava abbastanza storto e come capita, insomma un po' una sceneggiatura, insomma, a un certo punto mi arriva una telefonata dall'amministratore delegato Vincenzo D'Antonio e ci accordiamo al fatto che entrambi volevamo ancora realizzare quel progetto, lui si stava un po' ristabilizzando, cioè era in discussione con le banche. Vado a lavorare a Rieti intanto, vado a lavorare, loro avevano appena finito di installare la linea di produzione delle celle, lì per me è come ritornare bambino, ritornare vivo, perché avevo passato quasi 18 mesi a incontrare avvocati, a incontrare banche, a cercare di... che in certo senso ho imparato a fare, ma non ho detto che è esattamente il mestiere che amo maggiormente fare. Il mestiere che amo maggiormente fare è quando torno a pensare alle produzioni, all'innovazione. Torna l'idea di iniziare un'avventura imprenditoriale e quando alla fine del 2009 Permira si mette sul mercato, la famiglia Mutti compra e diviene l'azionista di riferimento. Paolo Mutti è amministratore delegato di Solsonica e unisce sia la parte di gestione manageriale che la parte di ricerca. Dal punto di vista della produzione, Solsonica avrà nel 2011 circa 136 megawatt di produzione di moduli e avrà 40 megawatt di produzione di celle. Nel contesto nazionale io penso che siamo il primo produttore in termini di capacità installata. Questo perché per una serie di motivi altri produttori poi non sono cresciuti allo stesso ritmo. Devo dire in maniera sincera che l'aspetto secondo me più importante, più che l'ammontare della capacità che è significativo, devo dire anche la qualità della produzione. In realtà però le sfide sono molto importanti, perché al di là del fatto che siamo cresciuti di un fattore 3 su 3 anni, ci sono soggetti asiatici che sono cresciuti di un fattore 3 o di un fattore 10 sullo stesso arco temporale e più o meno in maniera assolutamente veloce l'Europa, l'Italia in particolare, nel senso che la produzione europea di moduli e celle è concentrata in Germania, ha alcuni player in Italia, alcuni in Spagna e poco altro, un po' in qualche altro stato. L'Asia era partito uguale, solo che ora loro sono tipicamente un ordine di grandezza, cioè un fattore 10 più grande degli operatori europei. Anche in questo settore la concorrenza è con la Cina. La filiera del silicio è lunga e rende competitivi i soggetti asiatici, anche perché sulla materia prima sono necessari processi di lavorazione che in Italia non esistono. Allora, per stare e stare su quel livello di competizione, che cosa significa? Significa che tu devi... Ancorché sia un prodotto molto semplice, un modulo, perché non è come un'auto in cui puoi caratterizzarlo col motore, con l'impianto elettrico, con la carrozzeria, con la dimensione, col modello, col segmento, con tutto quello che vuoi. Un modulo fotovoltaico è qualcosa che si avvicina, questa è la terminologia usata da molti analisti, no, ma il modulo fotovoltaico è una commodity. In realtà non è una commodity, perché a seconda di come è fatto può generare meglio o peggio. E quindi noi dobbiamo farlo sempre meglio. Farlo costare poco, non riuscirà mai a costare meno o anche uguale di un produttore cinese e quindi competi vendendo un prodotto che in un certo senso deve essere sempre migliore di quello cinese. Oggi Solsonica vende a grandi clienti del settore IPC e ad installatori. e ci conferma quello che Radio 24 ha raccontato in questa settimana nei suoi programmi. Con il meccanismo attuale di sovvenzioni pubbliche, il settore del fotovoltaico ha conosciuto un boom senza precedenti, che è ancora da analizzare. Oggi vendere un modulo, se oggi è stato il 2010, guardi, ci si metteva io e lei e bastava averli, si vendeva tutto. Cioè, uno, il problema è che non ne aveva mai abbastanza. Il problema nostro nel 2010 è stato portare i livelli di occupazione degli impianti ai numeri più alti possibili. Cioè, noi siamo arrivati all'85-87%, abbiamo lavorato parte della produzione, ha lavorato anche in giorni festivi, e su questo, diciamo, devo veramente ringraziare anche gli operatori di Solsonica, che si sono veramente prestati a fare il massimo. Il problema è domani. Al di là di quelli che dopo gli incentivi di questi anni saranno i numeri definitivi della potenza installata per la produzione di energia solare, nel futuro gli equilibri e le strategie del settore dovranno essere ripensati. La verità del fotovoltaico è che è ottima dal punto di vista di una generazione distribuita, dove il fotovoltaico è sul punto di utilizzo. Il grande vantaggio del fotovoltaico è quello che produce nelle ore in cui la tariffa elettrica è più elevata, perché produce quando c'è il picco. Se io mi uso direttamente, e questo si chiama autoconsumo, quella produzione, io non sto consumando quella della rete. Io risparmio la parte più costosa della mia bolletta elettrica. Quindi deve essere, secondo me, agevolato e premiato. Questo che è il concetto portante. Il progetto futuro dell'azienda è di rivolgersi al consumatore finale, cioè alle famiglie, e anche di andare all'estero, dove in questi anni non c'è stata necessità di andare. 2011-2012 in avanti, anche estero, di nuovo con un concetto, un mercato che a me piaceva molto come caratteristiche, un mercato difficile, che però parlava la lingua che vuol parlare Solsonica, che era il mercato francese, solo che si è tutto imballato perché sembra che siano più burocrati di noi e quindi lì si è fermato. Trovo che un mercato molto interessante è chiaramente quello tedesco. Se la immagina, il 40% sono impianti sotto i 10 kW, quindi roba piccola, è però un impianto, cioè un mercato dove vai lì e sei pronto a prendere delle grandi sberle, perché farsi un nome come produttore di qualità italiano in Germania, diciamo che non è esattamente il mercato in cui noi veniamo ritenuti il quality maker, ecco. Però se hai un'offerta buona ce la fai. Il mercato tedesco tutta la vita, quindi sarà un mercato importante. Spero ci sia un risveglio nel mercato francese. Guardo con interesse l'evoluzione di questo mercato americano, però chiaramente è molto lontano. Solsonica è a Città Ducale, vicino a Rieti. La famiglia di Paolo Mutti questa volta è rimasta a Milano. La mia famiglia sta a Milano. Devo dire, Manuela, mia moglie, chiaramente tiene botta in maniera fantastica al fatto che Martina e Giacomo, che sono due preadolescenti, perché Martina fa il primo anno alle superiori e Giacomo lo farà il prossimo anno, quindi 13-14 anni, quindi anche con un periodo in cui non è facile stare da soli 5 giorni alla settimana, e non gli ho neanche chiesto di venire a Rieti, anche perché francamente Solsonica deve invadere il mondo. L'esempio che io faccio internamente è, visto che tra l'altro l'indumento di lavoro è un giacchettino arancione, è di immaginare la propagazione di un virus, e quindi voglio dire da Rieti verso il mondo. Quindi per me è fondamentale anche immaginare che da Rieti ci si proietti lontano. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.